scrivere cartelle per essere più sintetico. Ecco. Abbiamo visto che il confronto sociologia e teologia denota un disgelo tra le due discipline e anche tra le persone che ne sono gli specialisti. Ecco, un altro segno concreto del disgelo tra sociologia e teologia è dato dal fatto che l'arcivescovo di Trento, Monsignor Giovanni Maria Sartori, ha citato nella sua lettera pastorale Rigenerati a vita nuova proprio il testo Immagini della religiosità in Italia. Ecco, devo ringraziare pubblicamente l'arcivescovo perché ha dato un'attenzione concreta alle produzioni della sezione dei sociologi della religione dell'Associazione Italiana di Sociologia. Non vi dico la pagina, comunque c'è la citazione esplicita. Se questo è vero dal versante teologico e teologico pastorale, ricordo ancora come proprio qui a Trento un autorevole esponente della comunità scientifica dei sociologi italiani, il presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia, professor Mario Toscano dell'Università di Pisa, l'ottobre scorso alla Facoltà di Sociologia ha sollecitato i sociologi ad aprire un confronto con altre discipline, come dicevo prima, in particolare con la teologia, proprio per essere più attrezzati e rispondere in modo più adeguato alla crisi antropologica dell'uomo contemporaneo. Ciò denota senz'altro un interesse nuovo delle scienze umane per il sapere teologico e indicatore di quella svolta teoretica della sociologia in Italia, in particolare della sociologia della religione, che è stata messa in luce dal professor Achille Ardigò, presidente nostro del Ministero dell'Interno e di Cultura, nel corso della presentazione del volume Immagini della religiosità in Italia, che ha avuto luogo all'Università di Pisa l'8 novembre scorso. Con una di Siena, di Siena. Con una lettura in profondità di questo testo, Ardigò ha fatto emergere le dimensioni latenti di una svolta significativa nella sociologia della religione in Italia. Infatti, a fronte della riflessione sul fenomeno religioso, che si richiama all'impostazione sociologica classica, centrata sull'analisi dell'istituzione religiosa e sulle funzioni sociali e culturali del sacro, sta prendendo forma un paradigma nuovo, che vede nello religioso una realtà altra, non giustificabile più in termini culturologici, per i suoi effetti di integrazione e di legittimazione, bensì in termini trascendenti, per la novità del suo messaggio e per la radicalità della sua prospettiva al di là del sociale e dell'umano. Tale svolta si inserisce in una tradizione scientifica in costruzione, come osserva Carlo Prandi nel primo saggio contenuto nel volume che stiamo presentando. Nel suo contributo storico-sociale, Prandi riesce in modo egregio a ricostruire i tratti qualificanti di un percorso culturale, quello della sociologia e della religione in Italia, che ha preso le mosse negli anni 50 e ora coinvolge diverse decine di studiosi che hanno prodotto e pubblicato negli ultimi 10 anni alcune centinaia di testi, volumi o articoli. La ricca bibliografia a conclusione del libro, curata da Stefano Martelli e da Maria Clelia Romano, annovera ben 114 autori e 496 titoli, che coprono tutte le varie dimensioni della disciplina. Una produzione così ricca, pur in presenza di una carenza congenita di mezzi a disposizione per la ricerca e di una sua marcata frammentazione tematica e strutturale, sta ad indicare che la tradizione scientifica ha acquistato nei suoi 40 anni di vita una certa maturità e un rilevante spessore scientifico. La prima indagine socio-religiosa pubblicata in Italia è del 1952 e ha per titolo Sociologia e geografia religiosa di una diocesi, saggio sulla pratica religiosa della diocesi di Mantova, condotta e redatta da Donaldo Leoni presso l'Università Gregoriana di Roma. Si devono aspettare ancora alcuni anni prima di incontrare due autori italiani più significativi: Sabino Acquaviva dell'Università di Padova, che pubblica nel 1961 L'eclissi del sacro nella civiltà industriale, e Silvano Burgalassi dell'Università di Pisa, che pubblica nel 1968 Il comportamento religioso degli italiani. Non è il caso di ripercorrere in questa sede le tappe successive dello sviluppo della disciplina. Quello che mi preme sottolineare è la differenziazione degli orientamenti di ricerca sulla base del loro particolare oggetto di studio. Un primo filone privilegia lo studio della religione come istituzione sociale e concentra la sua attenzione analitica soprattutto sulla religione di chiesa. Si collocano in quest'ambito le indagini empiriche sulla pratica religiosa che si rifanno alla scuola francese di Gabriel Mabras, qualche autore tra i più noti, già citato Silvano Bergolassi, Franco De Marchi, Antonio Brunelli e i più giovani Franco Guarelli e Stefano Martelli. Un secondo filone privilegia invece la religione come fatto storico-sociale e tratto culturale nel suo complesso. In questo contesto il sacro viene analizzato nella sua periodicità non solo con l'apporto di altre scienze umane, soprattutto dell'antropologia e della storia, come fa Arnaldo Nesti nella sua teoria del religioso implicito, ma anche con vari apporti metodologici tra l'approccio quantitativo e quello qualitativo, come fa Roberto Cipriani con la sua teoria della religione diffusa. Un terzo filone studia la religione come un bene prodotto e offerto dagli specialisti di chiesa ai loro clienti potenziali nell'ambito della teoria del campo religioso, che consente a Gustavo Guizzardi di elaborare la sua sociologia politica della religione, in cui risulta centrale la relazione di dipendenza dei clienti appunto dagli specialisti che godono di una posizione di potere nei loro confronti. C'è infine un quarto filone, piuttosto recente, benché abbia radici lontane, che si possono ritrovare appunto nelle crisi del sacro di Acquaviva. Acquaviva l'ha riproposto nel suo saggio Eros, morte ed esperienza religiosa del 1990, dove l'esperienza religiosa è interpretata come, cito, sublimazione prima psicologica, quindi culturale e storica, dei seguenti bisogni umani non soddisfatti: amortalità, bisogno bioprogrammato, amare ed essere amati, conoscere e dotare di senso. Fine della citazione. Il tema dell'esperienza religiosa è stato poi ripreso da Acquaviva in collaborazione con Enzo Pace nel loro volume teorico Sociologia della religione del 1992. È proprio nell'ambito dell'analisi della religiosità personale, intesa come esperienza religiosa, che si registra la svolta della sociologia della religione in Italia, sottolineata da Ardigò. Infatti, in questo caso, la religione, nella sua dimensione soggettiva e originaria, può essere analizzata anche come relazione con il trascendente, che viene a risolvere i problemi di senso e di compagnia legati al limite esistenziale dell'uomo. Il trascendente, interpretato da Weber con la categoria del carisma e la teoria conseguente, è una realtà altra, sulla quale la sociologia scienza empirica ha ben poco da dire. E la sociologia si limita ad analizzare la relazione con il trascendente, che rientra nel paradigma sociologico del rapporto ego-alter. E proprio per questo motivo sente l'esigenza di aprirsi al dialogo con la teologia, che invece fa del trascendente il tema del suo discorso razionale. Uno dei sociologi che hanno di recente approfondito il tema della trascendenza in rapporto allo sviluppo della persona umana è Thomas Luckman. Nel suo volume di Unsichtbare Religion, del 1991, che riprende il titolo della sua opera più famosa, La religione invisibile, pubblicata più di una ventina d'anni fa, Luckman rileva come, cito, il trascendere la natura biologica sia un fenomeno universale. Fine della citazione. Trova proprio nel trascendimento della natura biologica dell'uomo l'elemento sociale universale che gli qualifica come religioso. Per cui, cito, il processo di umanizzazione, cioè di costruzione del sé, è un processo religioso, che alberga nelle coscienze delle persone e quindi è invisibile. La religione invisibile è per Luckman la religiosità personale, che consiste nella relazione con l'altro da sé e in definitiva nella relazione con il trascendente. Funzione sociale e non psicologica, come vorrebbe Acquaviva, della religione dunque è l'umanizzazione degli individui biologici e di conseguenza l'umanizzazione della società stessa. La religione può rendere la società più umana. Si apre così un ampio scenario sul futuro. La nuova civiltà dell'umano, che si intravede emergere dalle ceneri della modernità, secondo l'ipotesi di lettura dell'indagine sui valori degli italiani nel contesto europeo condotto nel 1990 dall'Università di Trento, sollecita uno sforzo collettivo di comprensione e di assunzione di responsabilità. Purtroppo alla rilevanza sociale del fenomeno religioso non corrisponde sempre un'altrettanto rilevante attenzione culturale e scientifica. Nel suo contributo al volume Le identità territoriali, Roberto Cipriani lamenta la carenza di un'indagine nazionale sulla religione degli italiani. Ci sono numerose e notevoli iniziative circoscritte ad ambiti territoriali limitati entro i confini di una provincia, di una diocesi o di una regione. Manca però una ricerca omogenea e articolata di respiro nazionale. Solo di recente l'Università Cattolica di Milano ha promosso una ricerca di questo tipo. L'augurio è che questo progetto possa essere portato a compimento e ciò avvenga con rigore scientifico. La speranza è che esso costituisca un passo importante verso la costituzione di un osservatorio socio-religioso a livello nazionale, attento a tutte le espressioni di un fattore, quello religioso appunto, che mantiene una rilevanza strategica per comprendere le dinamiche sociali e i processi culturali nel nostro paese.